Cano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Sky, l'Unione Europea dà ragione al Premier. Bruxelles, giusto armonizzare l'IVA, altrimenti via la procedura di infrazione. Berlusconi, bisogna regolamentare Internet. Dagli studi di Radio 24, un saluto da Bruno Perini, con noi stamane in regia Filippo Aureggi. Vi ho appena letto il titolo del quotidiano La Stampa, uno dei quotidiani ieri attaccati, criticati dal Premier Silvio Berlusconi. E oggi La Stampa torna con questo titolo che è forte, Sky, l'UE dà ragione al Premier, un titolo che vuole in qualche modo dare a Berlusconi quel che è di Berlusconi, come si potrebbe dire. La Commissione Europea interviene sul caso delle aliquote IVA. Se il governo italiano non avesse allineato la tassazione per Sky a quella delle altre TV, Bruxelles avrebbe lanciato una procedura di infrazione contro l'Italia. Questo quindi in qualche modo una presa di posizione forte della Stampa, che però affida a un corsivo non firmato, presumibilmente del direttore Giulio Anselmi, dal titolo Figuraccia. Vediamo cosa scrive la Stampa. L'Europa riconosce la correttezza del comportamento del nostro governo nella vicenda dell'aumento dell'aliquota IVA sulla Pay TV. Il Premier Berlusconi lo sottolinea come giusto e commenta che la sinistra e i giornali che lo hanno accusato hanno fatto una figuraccia enorme. Quest'ultima affermazione non ci riguarda, scrive la Stampa. Ma poiché la Stampa ieri l'altro è stata direttamente chiamata in causa assieme al Corriere della Sera, preferiamo non restino equivoci e ribadiamo quanto abbiamo già scritto. Il giornale ha raccontato lo scontro che ha acceso la politica italiana e il mondo televisivo, limitandosi ad esercitare il diritto di cronaca, senza schierarsi. Però, nel momento in cui Berlusconi parla di preteso conflitto di interessi, è doveroso sottolineare che se il macroscopico conflitto non esistesse, il caso non sarebbe divampato con tanta violenza politica e mediatica. Il quotidiano La Stampa, che oggi apre il suo commento principale, Marcello Sorgi, ex direttore della Stampa, tra l'altro commentatore oggi del quotidiano torinese, bloccare le moschee, e qui c'è tutta una risposta, una riflessione sostanzialmente di Marcello Sorgi attorno al tema forte di oggi, dopo le dichiarazioni del ministro Maroni, che dice dobbiamo una moratoria a tempo indeterminato sulle moschee, perché non si capisce se sono luoghi di religione o luoghi dove si cercano, come dire, si allevano terroristi. Questa è la posizione del ministro, molto criticata da sinistra. Ora il quotidiano La Stampa poi dedica Valerio Pellizzari, dedica invece una riflessione su Karzai, il ribelle, e si parla di metamorfosi del numero uno dell'Afghanistan cambiamento di linea politica. Questo sulla Stampa. A proposito di Sky, dice la Stampa, Sky non si arrende e lancia un nuovo spot, ed è ancora il volto di Ilaria D'Amico, uno dei volti di Sky, che ha chiesto in diretta al Premier di ritirare il provvedimento, che diventa protagonista adesso addirittura di questa vicenda. Ma sulla vicenda, sul caso Sky, se noi ci spostiamo sul Corriere della Sera, troviamo un'opinione che vale la pena di andare a leggere, di Sergio Romano, editorialista di grande peso e anche molto stimato dai due schieramenti. E voglio credere che le parole del Presidente del Consiglio sui direttori del Corriere della Stampa fossero soltanto una battuta, uno sfogo, ciò che si dice alla fine di una giornata particolarmente lunga e faticosa. Voglio crederlo, perché Silvio Berlusconi è spesso un uomo gioviale, bonario, accattivante, che si fa in quattro per suscitare ondata di simpatie e manifestazioni di affetto. Queste doti sono certamente una delle ragioni del suo successo. Gli hanno permesso di stringere amicizie influenti, di farsi strada nel mondo difficile degli affari, di attrarre intorno a sé uno stuolo di ammiratori fedeli, di creare un impero della comunicazione, di convertire aziende in partito e gli ammiratori in elettori. Le stesse doti, tuttavia, possono essere in alcuni casi il suo tallone d'Achille, questo scrive Sergio Romano. Abituato a sedurre, Berlusconi ricorda talvolta quei malati immaginari che misurano continuamente la loro temperatura. Il termometro in questo caso registra la simpatia e i consensi. Se lo strumento segnala un calo del calore affettivo che alimenta ogni giorno il suo ego, il Presidente del Consiglio reagisce come un amante deluso e tradito. Se i suoi interlocutori non sono sensibili alle sue virtù di seduttore, è convinto che abbiano un'ostilità preconcetta nei suoi confronti. Questa è l'analisi che viene fatta sul Corriere della Sera da Sergio Romano. Anziché chiedere a se stesso se non abbia commesso un errore, Berlusconi presuppone immediatamente la malizia altrui. Non si può essere... dice, il suo compito e la maggioranza di cui dispone comportano alcuni obblighi, tra cui quello di evitare che il bipolarismo italiano diventi un conflitto permanente. Non si può essere ottimisti, come Berlusconi ama definirsi, e contribuire all'acido clima di ostilità contrapposte che sta avvelenando la politica italiana. Non si può incoraggiare il paese a credere nel proprio futuro, soprattutto durante una grave crisi economica, e comportarsi come se l'Italia fosse un campo di battaglia fra chi ama il Presidente del Consiglio e chi lo detesta. Non si governa soltanto tanto con leggi e decreti, si governa anche con lo stile, vale a dire fornendo all'opinione pubblica un modello di serietà, equilibrio, riserbo e soprattutto misura verbale. Questa è la tesi. Il Corriere della Sera svela, e Giancarlo Radice, anche se non ne fornisce il contenuto, svela che Murdoch, il magnate, il grande imperatore, diciamo, della comunicazione mondiale, che adesso è entrato in rotta di collisione con il Presidente del Consiglio, scrive una lettera al Cavaliere. Rupert Murdoch, o Murdoch, presidente e amministratore delegato di News Corporation, avrebbe preso carta e penna per scrivere direttamente a Silvio Berlusconi sulla vicenda dell'IVA sulla Pay TV. Così riferiscono fonti newyorkesi molto vicine al colosso multimediale USA. Nessuno conosce in dettaglio i contenuti del messaggio, ma pare che i toni non siano particolarmente cordiali. Questo scrive il Corriere della Sera, che invece affida a Gian Antonio Stella, che tutti ormai conosciamo come... lo ripeto sempre per individuarlo come autore prima della casta e poi della deriva, assieme a Rizzo, all'altro giornalista del Corriere della Sera, che scrive il pasticciaccio degli sgravi verdi. Cioè, il tema oggi è, come voi sapete, uno dei temi forti dell'economia, della politica economica, quello degli sgravi, quell'idea balzana di risparmiare sul risparmio energetico il governo se la poteva davvero risparmiare. Questo scrive Gian Antonio Stella. Compriamo all'estero l'88% dell'energia, siamo schiavi dei capricci dei padroni del gas e del petrolio e consumiamo quanto Turchia, Polonia, Romania e Austria messe assieme. Ecco, il giornalista del Corriere Gian Antonio Stella spiega, dice, e in questa situazione il pacchetto anticrisi va a togliere proprio le detrazioni fiscali a chi voleva consumare meno. Uffa, sbufferà qualcuno vedendo l'affannarsi i ministri e precisare che l'errore verrà corretto. Può capitare a chi governa di pestare una buccia di banana. Verissimo. Dice, dobbiamo però comunque registrare questa cosa. Il governo Berlusconi aveva deciso di abolire l'automatismo delle detrazioni stanziando per il 2009 82,7 milioni di euro destinati ai primi che presentavano la domanda di pannelli solari. Per lo Stato si trattava di rinunciare a incassare centinaia di milioni, ma a quel punto chi decideva di dotarsi di un impianto fotovoltaico o del cappotto di materiali isolanti aveva tutto l'interesse a denunciare ogni centesimo che aveva speso per poterlo scaricare sulle tasse. Insomma, dice il Corriere della Sera con Gian Antonio Stella, è stato fatto un nuovo pasticcio, prima una proposta, poi adesso una retromarcia che non dà certo chiarezza della politica economica. Io volevo rapidamente sul Sole 24 Ore, torneremo sul Sole, sulle cose importanti che aprono la prima pagina, ma oggi voglio segnalarvi Facebook, famiglia d'adozione per 4 milioni di italiani. È Luca De Biase che commenta, che cosa? Commenta il libro che guida, che è in edicola oggi con il Sole 24 Ore, in vendita a 4,90 euro, che ci spiega tutto di Facebook, il mondo ormai virtuale dove si incontrano ben 4 milioni di italiani. È una delle cose più diffuse, ci sono delle cifre impressionanti di crescita di partecipazione a Facebook. Nel giro di pochi mesi si è passati da cifre 100.000 persone a 4 milioni di italiani, quindi davvero sta affascinando tutti. E Luca De Biase ci spiega sul Sole oggi di che cosa si tratta. I salvataggi americani e il rischio protezionista. Così il Sole 24 Ore affida a Umberto Bertelet una riflessione sulla crisi dell'auto. Vi ho letto appunto il titolo di questo editoriale, commento di prima pagina. In un mercato come quello automobilistico, che pur mantenendo forti differenziazioni locali tende a essere sempre più interrelato su scala mondiale, le difficoltà in cui versano le tre grandi case americane, arrivate a chiedere allo Stato 34 miliardi di dollari, un terzo circa dei quali entro Natale per il loro salvataggio, e altri 11 per la progettazione di nuovi veicoli a basso consumo e a basso impatto ambientale, dovrebbe rappresentare una buona notizia per un'impresa come la nostra Fiat. Ma c'è un ma, scrive Umberto Bertelet sul Sole 24 Ore, ma proprio il meccanismo degli aiuti pubblici, ritornato in gran voga con l'approfondirsi della crisi generale, rischia di mettere in crisi quell'idea di salvaguardia delle regole di mercato che si era faticosamente fatta strada negli ultimi decenni. Con un ritorno all'anarchia nella loro erogazione e con la possibilità di una rilevante distorsione della concorrenza. Che i tre produttori statunitensi fossero in profonda crisi strutturale, oltre che congiunturale, nonostante il loro ripetuto tentativo di qualificarsi come snelle, innovative e ambientalmente consapevoli, lo si sapeva da diverso tempo. Anche se tra gli ultimi ad accorgersi, almeno per la General Motors, è stato il mercato borsistico. Ma, dice, questo non toglie il fatto che il rischio protezionista adesso sia molto forte in un settore strategico, importante, anche se maturo, come quello dell'auto. Questo è il Sole 24 Ore, che apre invece con finanze e mercati con Antonella Olivieri, scrive Telecom, focus sul debito Italia e Brasile strategici, free cash flow di 22 miliardi, esuberi a quota 9.000. Torneremo anche su questa notizia che angoscia un po' naturalmente lavoratori e sindacati del settore TLC e in particolare della Telecom. Ora io voglio però tornare al caso Sky. E al caso Sky, diciamo più lateralmente, più generalmente, a quello che il Riformista definisce il caso Tremonti, in realtà, cioè quindi al di là di quello che è venuto su Sky e delle iniziative prese dal ministro Giulio Tremonti, noi sappiamo che il Riformista da giorni fa una campagna per dire che nel PDL c'è qualcosa di, come dire, ci sono due centri di gravità adesso, uno è quello Berlusconi, l'altro è quello Tremonti. Il consenso di Berlusconi se lo mangia il superministro. E dice il caso Tremonti, il decreto scontenta tutti, ha irritato il Quirinale, gelato Confindustria e le banche, deluso le famiglie, fatto infuriare Murdoch e riavvicinato i sindacati divisi, e nel PDL c'è già chi chiede una cabina di regia, ecco il punto, la cabina di regia. Tremonti è un genio, parlando con lui spesso si sente un pirla anche chi non lo è, perché Giulio trasmette la sua intelligenza come prima cosa, confessava Silvio Berlusconi appena un mese fa durante un pranzo alla Fiera di Rho, lasciando i commensali sospesi tra il piacere della confidenza e lo stupore per il fatto che il cavaliere si accomunasse alla schiera degli inibiti dall'esuberanza intellettuale del suo ministro. Ora il Riformista va a intervistare Gaetano Quagliariello, che è vicepresidente dei senatori del PDL, che dice: primi effetti del caso Sky, non siamo esecutori, ora una cabina di regia. Attenzione a non disperdere il voto del 13 aprile, il rapporto tra governo e maggioranza non può risolversi col primo che decide e la seconda che preme pulsanti, e il riferimento è appunto a Giulio Tremonti. Anche Tonia Mastrobuoni dice: così Giulio scontenta quasi tutti. Insomma, questa intervista in qualche modo conferma, avvalora l'ipotesi che a questo punto nel Partito delle Libertà ci voglia una cabina di regia, nel senso che ci sono due centri di decisione, ripeto, uno di Tremonti, l'altro di Silvio Berlusconi. Questa è la tesi del Riformista, naturalmente, ma se vogliamo spostarci sul Partito Democratico e sulle critiche, allora dobbiamo andare al Giornale e poi al quotidiano La Repubblica, perché il Giornale lancia un attacco durissimo, non tanto quindi ai giornali, agli altri giornali, ai comportamenti, ma Mario Giordano, direttore del Giornale, lancia un attacco durissimo a Walter Veltroni. Il titolo, già dal titolo lo capiamo, intanto il titolo generale è: IVA sulla TV, l'Europa spegne Veltroni, Bruxelles chiude la partita delle televisioni, Berlusconi dice la sinistra ha fatto un errore enorme, Walter tradito dai suoi, nessuno lo avverte dell'accordo di Prodi, che gli fa un altro sgambetto. Ed è Mario Giordano che figura da schifo, Skyfo è in realtà è un gioco di parole del titolo, l'IVA funesta del pelide Walter che infiniti addusse lutti al PD. Ma sì, ci vorrebbe un poeta per raccontare le tragicomiche avventure di Veltroni, che ormai è peggio di Cimabue. Fai una cosa, ne sbagli due. Non gliene va bene una, dopo essere scivolato sulla vigilanza RAI, sul PSE, sul fronte settentrionale, sotto accusa all'interno del partito, sotto attacco all'esterno con una cascata di consensi che al confronto in Niagara è uno stagno, ha deciso di trascinare il partito in una furiosa battaglia a difesa del multimiliardario Murdoch. Compagni dai campi e dalle officine, prendete il telecomando, prendete il martello, c'è da difendere il magnate della TV, l'ex squalo trasformato in compagno, il tycoon del post partita eletto idolo del post comunismo. Queste le parole molto vivaci di Mario Giordano per dire, per registrare quello che viene definito da Giordano stesso il fallimento clamoroso della politica di Walter Veltroni. Ora, questo è il Giornale. Per capire allora cosa ne pensa il diretto interessato, bisogna andare al quotidiano La Repubblica, che appunto intervista Walter Veltroni, ed è Massimo Giannini, vice direttore della Repubblica, che lo intervista, e vediamo che cosa ci dice Massimo Giannini. Io non amo parlare di questioni interne al Partito Democratico, ma di fronte a quello che sta accadendo avverto la necessità di dire adesso basta. Queste sono parole di Veltroni, ovviamente. Basta con le confessioni anonime, basta con il retroscena, basta con i veleni. È inimmaginabile che nel cuore di una crisi economica gravissima e di una crisi di consenso del governo, il centro-sinistra riformista ricada nel suo solito vizio autolesionista, quello di segare l'albero su cui sta seduto. Sono ore difficili per Walter Veltroni. Nel suo ufficio di Nazareno, il segretario del Partito Democratico ostenta serenità, ma si capisce che non ne può più. Diciamo la verità, non è un bel momento per il Partito Democratico, osserva Massimo Giannini. Questo stilicidio quotidiano non fa male a me, fa male al partito e fa bene alla destra. Berlusconi è impegnato in un attacco contro di noi che non ha precedenti. Di fronte a questa offensiva io non invoco solidarietà o spirito di squadra. Capisco che sono termini d'antan, che oggi in politica non vanno più di moda, ma pretendo trasparenza e coerenza. Questo sì. Che cosa vuol dire? Trasparenza vuol dire che se si è convinti che il problema del PD sia la leadership, è giusto dirlo a viso aperto. Il 19 dicembre ci sarà la direzione del partito. Quello è il luogo per sollevare il problema e per trovare serenamente le forme per risolverlo. Insomma, è una sfida che Walter Veltroni lancia allo stesso partito, il suo Partito Democratico. Dite: non mi volete, e chi non mi vuole si faccia avanti e dica chiaramente se vuole sostituirmi e prendere il mio posto. Quindi è una sfida aperta. Questa naturalmente apre definitivamente la battaglia politica all'interno del Partito Democratico sulla vicenda della gestione della guida dell'opposizione. E ci sono una serie di dichiarazioni di Veltroni: basta con i veleni, voglio rilanciare il nostro profilo riformatore, la questione morale non riguarda solo noi. Questo dice Walter Veltroni, tra le altre cose, riferendosi alle critiche di Antonio Di Pietro. Ora staremo a vedere se queste parole di Veltroni verranno accolte, diciamo, dall'opposizione, dall'ala dalemiana dentro il partito, e quindi se si aprirà una battaglia vera. Il quotidiano della Repubblica riporta: la Lega, basta moschee, blocchiamo la costruzione. Dopo l'arresto di due immigrati marocchini accusati di progettare attentati terroristici a Milano, scrive Renzo Guolo sulla Repubblica, la Lega va all'attacco e chiede una moratoria sulla costruzione di nuove moschee. Almeno sino a quando il Parlamento non approverà una legge che regolamenti l'edificazione di luoghi di culto che non abbiamo sottoscritto intese con lo Stato. Prospettiva molto lontana, visto che i leghisti pensano che quell'intesa non si farà mai, perlomeno sino a quando potranno impedirla. Una soluzione sbagliata, quella invocata dal Carroccio, come già altre invocate in precedenza. Questa è l'opinione di Renzo Guolo sul quotidiano La Repubblica. Ora diamo: abolire le province, ci sta anche il Partito Democratico. Il quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, insiste, continua imperterrito nella sua campagna politica, appunto, che per abolire le province. E scrive in prima pagina: si infoltisce il gruppo di quelli che vogliono sopprimere gli enti. Il partito di Veltroni pronto a trattare. Manca soltanto un passo del cavaliere. Quindi è un'esplicita richiesta da parte di Libero, già da giorni, e di Vittorio Feltri al cavalier Berlusconi, a Silvio Berlusconi, al Presidente del Consiglio, perché intervenga col suo peso nella vicenda. Silvio Berlusconi in questi giorni ha avuto molti problemi, comprendo la sua titubanza davanti alla proposta di Libero circa la necessità di sopprimere le province, scrive Vittorio Feltri. Visto però che ha trovato tempo per mandare al diavolo un paio di miei colleghi, Paolo Mieli, direttore del Corriere, e Giulio Anselmi, direttore della Stampa, forse potrà ritagliarsi 5 minuti per leggere il presente articolo e degnarsi di rispondermi. Mi preme segnalare al Presidente che in questa battaglia non siamo soli, abbiamo lavorato non per spirito di parte di cui siamo provvisti, bensì per unire. Esemplifico, per rimanere in ambito politico ci hanno dato la loro adesione l'UDC, l'Italia dei Valori, il PRI, le casalinghe e addirittura il Partito Democratico, che aveva inserito l'abolizione di questi enti territoriali a determinate condizioni nel proprio programma elettorale. Ora dice Vittorio Feltri, insomma, registra, non dico per la prima volta, quello che si diceva anche ieri a proposito dell'abolizione delle province e degli ostacoli politici. Dice Bossi: in questo caso è un ostacolo, ma non siamo di fronte a un uomo irragionevole e insofferente alle trattative, bisogna parlargli, convincerlo, e solo il cavaliere può farlo con successo. In attesa, scrive ancora Feltri, gli consigliamo caldamente di sospendere almeno le pratiche in corso per la istituzione di 25 nuovi enti, la cui nascita sarebbe una iattura, una presa in giro dei cittadini cittadini che non hanno dimenticato la promessa di Berlusconi: aboliremo le province. Quindi invece sembra che da quello che ci svela lo stesso Feltri, qui si vogliono costruire altri enti. C'è infatti nelle due pagine che sono dedicate a questo tema, la battaglia di Libero, quella che viene definita qui la battaglia di Libero, la Lega frena, iniziamo a tagliare le prefetture, la Lega resta contraria all'abolizione delle province, perlomeno all'abolizione tout court, ma rilancia, vogliamo semmai quelle inutili. Ecco, e qui c'è una prima selezione che sarà forse l'ostacolo maggiore alla campagna, perché sarà difficile definire quali sono utili e quali sono inutili, questo il quotidiano Libero. Il quotidiano invece Il Foglio si occupa di una serie finita di cose, ma mi è caduto l'occhio su questo articolo: così la Confindustria pressa il governo con un dossier anticrisi. Tremonti spiega la linea dei conti in ordine evocando la Germania, Scajola molto attento ai malumori industriali. Marcegaglia in azione, questa è la tesi del Foglio. La linea rigorista del governo, però, sta iniziando a essere messa in discussione all'interno della Confindustria. Tanto che in ambienti della Confederazione, si legge sul Foglio, si nota in questi giorni un raffreddamento dei rapporti con l'esecutivo, mentre sul fronte sindacale il barometro segnala uno scongelamento dei confronti della CGIL. La speranza è che questa sintonia possa trasformarsi in un accordo sulla riforma della contrattazione. E scrive ancora Il Foglio: Emma in azione, la riforma del resto è resa indispensabile dalla crisi che costringerà le imprese a un recupero di produttività. Malgrado le tensioni delle ultime settimane, le parti hanno continuato a incontrarsi e a lavorare. Nulla accadrà prima che la CGIL abbia celebrato il suo sciopero solitario il 12 dicembre, ma dopo quella data si cercherà di stringere un accordo. Un nuovo appuntamento potrebbe essere fissato per il 14 dicembre, il 16 intanto. La Confindustria presenterà il rapporto di fine anno del Centro Studi, titolo L'economia italiana nella crisi globale, assetti internazionali, politica economica, competitività del paese e reazione delle imprese. Insomma, si dice, si sostiene che appunto quello che ci era apparso anche a noi, si registra insomma sul Foglio un seppur tenue raffreddamento dei rapporti tra Confindustria e governo su temi cruciali riguardanti la crisi e come uscire dalla crisi economica. Questo sul quotidiano Il Foglio. Ora, il quotidiano, il Manifesto, invece, si occupa di un'altra questione assai drammatica, e che è quella della crisi Telecom, e non solo della crisi Telecom in quanto crisi aziendale, ma insomma dei suoi riflessi sull'occupazione, perché scrive Gabriele Polo, il direttore, i morsi della crisi: la Telecom annuncia 9.000 licenziamenti, si aggiungono ai tagli provocati dal regalo di Alitalia a Colaninno, che pagheremo a lungo, e alle tante dichiarazioni di crisi che le imprese italiane annunciano ogni giorno con relativi esuberi, per non parlare del 500.000 di precari che a giorni resteranno senza lavoro. Dall'altra parte dell'Atlantico la General Motors pretende 18 miliardi di dollari dal governo USA appena il fallimento, e caccia 31.500 dipendenti. Il grande crack del liberismo morde tutto il mondo ricco, quello povero ne aspetta gli effetti. Gli alfieri del libero mercato ripudiano in fretta la loro religione e chiedono, più che altro, impongono il soccorso degli stati. Questo sul Manifesto, e che è preoccupatissimo per appunto l'occupazione che è la recessione e i primi segnali concreti. Il Messaggero, Luca Cifoni scrive: Tremonti, abbiamo fatto il massimo, non possiamo fare i fenomeni. Così il ministro dell'economia ha spiegato alla Camera i vincoli che gravano sulle scelte politiche del governo. Ecco le preoccupazioni: vincoli legati non tanto al patto di stabilità europeo, ma piuttosto ai mercati finanziari. Questo leggiamo sul Messaggero. Gli occhi sono puntati sul debito pubblico italiano in una fase in cui anche gli altri paesi hanno la necessità di ricorrere a massicce emissioni di titoli per finanziare le misure anticrisi. Tremonti ha poi definito un errore la norma che introduce anche sulle spese già sostenute nel 2008 limiti alle detrazioni fiscali sulla riqualificazione energetica. Ecco che Luca Cifoni poi dedica a questo un ampio articolo dove si analizza le posizioni da molti criticate del ministro Tremonti. Abbiamo visto che il Riformista addirittura parla di un caso Tremonti. Il Messaggero anche oggi propone nella sua rubrica Dillo al Messaggero un caso, e a firmarlo è Claudio Marincola o Marincola. Quando si dice l'importanza dei numeri primi, un 3 scambiato per un 8, un operatore distratto, un banalissimo errore nella lettura della bolletta del gas. È il caso più frequente, ma basta, avanza per imprigionarti in un equivoco tariffario, genere sempre più diffuso, che colpisce utenti e consumatori. È successo al signor Luciano Egizzi, 52 anni, romano, esperto di informatica. La sua è una storia semplice, eppure esemplare. Comincia quando apre la busta della bolletta dell'Eni. E questo è uno dei tanti casi che vengono denunciati dal Messaggero nella sua rubrica. Vi è anche una notizia sportiva che così balza in prima pagina: fantastica Lazio, Zarate, Pantev e il Milan s'inchina. La Lazio ha fatto l'impresa. Si è qualificata per i quarti di Coppa Italia ieri sera a San Siro, battendo il Milan in rimonta 2-1. Ai supplementari. Questa la notizia sportiva che fa felici i romani e un po' meno i milanesi. E con questa notizia dal Messaggero, questa segnalazione dal Messaggero, io finisco il mio tempo per oggi, quindi vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento domattina.